Dietro la notizia con Gigi Donelli. Sono le 8:32 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli in questo mercoledì 7 gennaio, qui alle nostre spalle negli studi di Milano uno spettacolo polare, direi bellissimo almeno nell'inquadratura che abbiamo noi della nevicata che continua. Naturalmente la situazione è più complessa per chi, molti anche noi stamattina, abbiamo dovuto raggiungere i nostri posti di lavoro, insomma abbiamo fatto i conti con i disagi. L'invito che posso fare, e lo faccio volentieri da cittadino, visto che anche questa mattina ho assistito a improbabili tentativi di partenza di chi non è magari nelle condizioni, mi riferisco automobilistiche, di muoversi e quindi di queste pattinate che bloccano intere vie della città, come dire, forse questa è l'occasione per usare i mezzi pubblici che funzionano regolarmente, ve lo posso confermare. Ma oggi parliamo di altri mezzi, mezzi grandi, mezzi coleali, mezzi che hanno caratterizzato il secolo che è stato, con il grande boom del trasporto aereo, che naturalmente hanno di fatto caratterizzato ormai l'anno intero che è passato. E nel febbraio scorso, proprio qui da Radio 24, potevate ascoltare, e lo potete fare ancora sul web di radio24.it, quel lungo intervento del presidente della compagnia francese Spinetta, che parlava del piano industriale e di quello che allora sembrava un accordo ormai imminente. Poi, come dire, tanta aria è passata sotto le ali di tutti questi aerei, naturalmente il governo è cambiato, gli accordi sono cambiati. Bene, oggi ci troviamo in una giornata in cui le cronache dei quotidiani ci raccontano che il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi cercherà in qualche modo di convincere il suo alleato, il leader della Lega Umberto Bossi, che nonostante quello che sembra ormai un imminente accordo con Air France, il suo interesse, la sua preoccupazione per Malpensa non è affatto inferiore a quella della Lega, e quindi che sarà possibile attraverso una serie di interventi e misure regolare il problema in modo che il prezzo di questa trasformazione non sia pagato interamente, almeno dallo scalo lombardo. Con noi questa mattina il collega del Sole 24 Ore, Marco Alfieri. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta. Allora Marco, cerchiamo di ripartire un po', dicevo, ormai la vicenda all'Italia ha percorso vari episodi. Oggi ancora una volta possiamo dire sembriamo di fronte a un momento risolutivo. Sì, diciamo che in questo ultimo anno e mezzo l'affare all'Italia si è sempre punteggiato, è stata una lunga maratona con tappe anche mozzafiato e sempre che cambiavano sempre registro in qualche modo. Diciamo che ormai dovremmo essere arrivati al photo finish, nel senso che venerdì, salvo clamorosi colpi di scena, e appunto questa vicenda ce ne ha regalati tanti in questi anni, i due CDA di Air France e di Alitalia appunto dovrebbero andare a ratificare questo accordo, che dovrebbe portare appunto il vettore transalpino Air France a entrare con la quota del 25% dentro Alitalia, per una cifra che si aggira intorno ai 300 milioni, quindi Air France dovrebbe diventare il primo socio singolo della nuova compagnia aerea italiana, e il primo socio singolo, però diciamo così in una posizione di minoranza, almeno formalmente e almeno per ora. C'è ancora una sorta di difficoltà nel capire quali saranno i termini del look-up, cioè per quanti anni i soci italiani non dovranno vendere la propria quota. Si parla di 5 anni, però ci sono ancora delle cose probabilmente da limare, e per quanti anni Air France dovrebbe rimanere in una quota intorno al 25%. Questo ovviamente non gli impedirà di fatto di comandare, sia per la massa critica, la massa finanziaria e ovviamente la capacità industriale e il network che mette a disposizione Air France, però sì, dovremmo essere a una svolta dal punto di vista industriale. Chiaramente, come spesso accade in Italia, dove si intrecciano politica ed economia, si sta chiudendo, diciamo così, una lunga vicenda industriale, se ne sta aprendo, o forse non si è mai chiusa, invece una vicenda politica che mette in competizione, diciamo, su un'area strategica come quella del Nord Italia, Lega Nord, che fa del presidio territoriale, diciamo, il suo côté identitario principale, e ovviamente il premier Berlusconi, che è leader di una forza in qualche modo nordista, però che deve tenere insieme gli interessi di tutto il paese. Quindi il piano industriale si va a chiudere della vicenda, o insomma quasi, e si apre invece ancora aperta la vicenda politica. Ecco, una vicenda politica che citavo poc'anzi nell'introduzione di questa nostra conversazione, che appunto proprio un anno fa vedeva anche tu ad aggiungersi a questi elementi quello che era da una parte il governo Prodi nella fine della sua attività, quindi quello che appariva al sostegno del governo di centrosinistra per il vettore francese, invece una posizione di preferenza più esplicita per i tedeschi dalla parte appunto di quella che allora era l'opposizione. E in tutto questo c'è anche uno dei grandi classici della storia italiana, cioè la divisione vero o presunta tra Roma e Milano. Intorno a questa vicenda c'è anche la vicenda dei due grandi scali, naturalmente Fiumicino in primo luogo e quello di Malpensa. Malpensa che, approfitto per ricordarlo, compie 10 anni. Noi lunedì abbiamo iniziato la settimana parlando dei 10 anni dell'euro e di questa grande vicenda appunto monetaria ma anche sociale e politica. Ecco, i 10 anni di Malpensa invece sono stati decisamente più complessi. A questo proposito mi permetto di ricordare agli ascoltatori l'800 24 00 24 se volessero partecipare in diretta. Dicevo, Marco, una divisione che è anche quella tra le città. Assolutamente, sì, un campanilismo insomma vecchio che si trascina da anni, insomma, per usare anche dei luoghi comuni o delle metafore, dei cliché, insomma, la capitale legale contro la capitale morale e la capitale economica, in questo caso Milano, contro la capitale della politica, insomma, i palazzi dell'economia contro i palazzi della politica. Mi sembra che sia una divisione un po', come dire, artata e anche un pochino provinciale in qualche modo. Parlando in questi giorni con alcuni esponenti del Fronte del Nord, quello che si percepiva era, come dire, tanto rumore per nulla, cioè non è cambiato niente, questo fronte variegato che mette insieme la politica e l'economia, che corre dal sindaco Moratti al presidente della SEA Bonomi, al presidente Formigoni, una serie di imprenditori, appunto l'anno scorso si opponeva al piano Prodi Air France, perché appunto diceva che avrebbe cancellato o ridimensionato eccessivamente lo scalo di Malpensa, cioè lo scalo di quel pezzo d'Italia più produttiva. Beh, oggi come dire, si è davanti un'impressione che in qualche modo si sta bevendo o si è costretti a bere l'amara medicina, cioè in fondo non è cambiato nulla, e cioè Malpensa anche con il governo amico tende a rimanere uno scalo di serie B, uno scalo di serie B rispetto a Fiumicino, e questa è una cosa che dà fastidio in qualche modo al fronte del Nord. È difficile anche trovare una soluzione, perché la Lega per esempio chiede o Lufthansa, che però ormai sembra, diciamo così, un'ipotesi tramontata, oppure la liberalizzazione dei diritti di volo. Ecco, ecco Marco, scusa, su questo punto arriviamo tra un momento. Sì. Volevo approfittare per così ripassare una scheda che è utile per ricordare i termini di questo ridimensionamento. I 1238 voli all'Italia che partivano ogni settimana da Malpensa prima del 30 marzo del 2007 sono diventati 312 voli a partire dal primo aprile 2007, il famoso, perché allora fu un momento diciamo critico, orario estivo. Poi diventano 147 quelle a partire dal primo novembre 2008, il piano Fantozzi, e sarebbero 201 i voli all'Italia in partenza ogni settimana da Malpensa a partire dal 13 gennaio del 2008. Quindi esatto. Questi sono sì, un numero di una indicano proprio plasticamente un'emorragia di voti davvero spettacolare, cioè nel giro di un anno e mezzo si passa da 1300 voli settimanali a 200, e ricordiamoci che i 1300 erano già, diciamo, sotto era un numero che sotto dava una capacità, diciamo, non completa dello scalo, perché era già un terzo sotto quello che doveva essere la capacità dimensionale e di network dello scalo, quindi non era saturo, e quindi 200 voli sono oggettivamente troppo pochi, e se una persona capita nella Malpensa in questi giorni davvero si trova di fronte uno scenario quasi spettrale, cioè una cattedrale nel deserto in cui partono, decollano e atterrano pochissimi voli. Ecco, naturalmente questo oggi forse ha maggior ragione. Tra un momento, tra l'altro, sentiremo qual è la situazione sugli scali milanesi, ma effettivamente esiste un problema diciamo strutturale dei voli. Ecco, puntualizziamo un elemento: qui stiamo parlando di voli dell'Alitalia. Esattamente. perché naturalmente un aeroporto non è fatto dei voli di una compagnia. I voli Alitalia, che per quanto riguarda SEA, cioè il gestore degli aeroporti milanesi, facevano circa prima del famoso de-hubbing di Maurizio Prato, cioè i numeri che ricordavi tu, prima del 31 marzo 2007, esatto, facevano circa il 53% degli utili di SEA, quindi diciamo così, era di fatto il vettore di riferimento, anche se poi l'Italia si divideva sul doppio hub, e questa poi è stata una delle cause delle difficoltà della compagnia di bandiera, cioè Fiumicino e Malpensa, però diciamo era una quota parte fondamentale. Quindi la necessità di SEA di riconvertire e di compensare un traffico di queste dimensioni, quindi non è assolutamente facile. E però appunto sono voli all'Italia, poi ci sono le altre compagnie. Se mi permetti di puntualizzare, qui entriamo proprio nel tema decisivo, cioè il discorso slot e revisione degli accordi bilaterali. Perché appunto essendoci la possibilità di far atterrare, far decolare altre compagnie, per quanto riguarda il mercato europeo, che è in open sky, cioè sono state tolte quelle bardature che frenavano la concorrenza, tendenzialmente non ci sono problemi, cioè compagnie che vogliono venire a volare su Malpensa, compagnie che fanno tragitti europei, possono tendenzialmente farlo, perché tra l'altro Malpensa, a differenza di altri scali europei, non è uno scalo saturo, e questo è un asset importante, cioè ha possibilità di crescita. Però chiaramente il tema vero per un aeroporto che vuole tornare ad essere un hub, cioè un aeroporto che fa traffico intercontinentale, è ovviamente quello di poter riscrivere i famosi accordi bilaterali. Dunque, un vettore che oggi volesse operare da Malpensa potrebbe subito farlo senza restrizioni su alcune tratte, quelle interne, quelle comunitarie, quelle appunto all'interno dell'Unione, e quelle per il Nord America grazie al recente accordo Cieli Aperti. Su tutte le altre rotte, in sostanza quelle orientali e sudamericane, un vettore diverso dall'Italia potrebbe volare da Malpensa solo se gli accordi bilaterali stretti dal governo italiano con ciascuno dei paesi in questione lo consentissero. Questo naturalmente, come ci anticipava Marco Alfieri, c'è un tema naturalmente economico, ce n'è uno anche politico, accordi da stringere e decisioni politiche da prendere. Sì, assolutamente così, interviene in questo caso la politica, intervengono le cancellerie, le diplomazie, insomma si parla di rapporti bilaterali tra stati sovrani, insomma torna anche un gergo in qualche modo novecentesco, e questa è la difficoltà ovviamente, perché poi sono processi lunghi, sono processi che occupano mesi e mesi, addirittura anni, quindi non sarà semplice. Quello che chiede la Lega, liberalizzazione veloce, è una cosa che non si può dare davvero, anche se ci fosse la volontà politica, quindi non potrebbe che essere un processo graduale e spalmato su più mesi. Chiaramente però ci vuole la volontà politica, e la volontà politica è tutta da verificare. È chiaro che l'accordo, il probabile accordo tra due alleati di governo, cioè tra il Premier e quindi la PDL e la Lega, passerà attraverso questa possibile revisione degli accordi bilaterali. C'è già nel piano industriale di Air France, di CAI, una promessa, cioè che tutte le nuove rotte intercontinentali che dovessero essere aggiunte da qui in poi, se chiaramente il conto economico lo permetterà, saranno messe su Malpensa, a patto che però ci sia un ridimensionamento dello scalo di Linate, e cioè lo scalo di Linate, secondo gli analisti, è uno scalo che fa concorrenza insieme a tutti i vari scali di Campanile, fa concorrenza all'hub di Malpensa, perché porta traffico, alimenta traffico sui grandi hub europei. Quindi c'è da un lato una difficoltà, c'è una volontà politica da parte del governo centrale che deve mettere in campo per revisionare i bilaterali, ma c'è anche una volontà politica, una necessità anche coraggiosa dal punto di vista elettorale del Comune di Milano nel arrivare a ridimensionare lo scalo di Linate, che sappiamo tutti è molto comodo, perché come si dice in gergo è l'aeroporto nel salotto di casa, cioè un aeroporto che è a 10 km dal centro cittadino, e quindi è diciamo politicamente difficile da chiudere, quindi è una chimica da trovare attraverso una serie di combinazioni, e non sarà facile. E indubbiamente è l'unica possibilità per sbloccare questa situazione, perché da un lato Berlusconi non è nelle condizioni, arrivato ormai al photo finish, di buttare all'aria il salvataggio di Alitalia che lo aveva promesso in campagna elettorale, Dall'altra parte la Lega, che si è fatta tutor dell'interesse del territorio, non può certo cedere e far sì che Malpensa rimanga ridimensionato come lo era con il governo Prodi. Insomma, quindi una difficile chimica da trovare, ma credo che sia l'unica strada. Con i tempi assolutamente maturi. Sentiamo un ascoltatore che ci chiama invece da Roma. Enzo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Io ho un'attività sia a Malpensa che a Fiumicino. Conosco esattamente i problemi e li scrivo dal 2000 a tutte le autorità politiche e anche aeroportuali, soprattutto della FEA, che ha munto la mucca all'Italia non preoccupandosi di sviluppare altre compagnie su quello scalo. Ecco, ora quando che la mucca è esausta, cosa si può fare secondo lei? Il discorso nasce dal 2000, quando Albertini non volle chiudere l'Inate o perlomeno regionalizzarlo, tenendo aperti due hub, quello che diceva poc'anzi il suo collega. Sì. Ora le merci Air France, KLM, Iberia, Swissair e tutte le altre compagnie in Italia le portano con gli aereo camionati, non più con gli aerei, quindi anziché arrivare a Malpensa arrivano a Segrate, arrivano in altri luoghi ben attrezzati, gestiti da amici politici, ok? Quindi le compagnie estere non hanno nessun interesse ad andare a Malpensa, perché le merci le portano presso questi handler privati e i passeggeri li vanno a rubare all'Inate. Altrove, quindi Malpensa perde di interesse. Io ringrazio Enzo che ci ha chiamato da Roma. Allora, Marco Alfieri, il punto sostanzialmente è quello che diceva l'ascoltatore, cioè rendere Malpensa appetibile, dare un senso a questo sviluppo che da anni viene dichiarato e che fatica a decollare, senza naturalmente per questo togliere il ruolo centrale anche geografico del Mediterraneo, che è dello scalo romano. Come si fa? Assolutamente, mi permetto di chiosare quello che ha detto la persona che è intervenuta prima. Permetto di dire che certamente Albertini ha avuto delle colpe. Il mancato decollo di Malpensa quando nacque, insomma, si festeggiano in questi anni 10 anni, e in queste settimane 10 anni di Malpensa ha purtroppo tante paternità. Certamente la politica milanese per interessi politici non sta in grado di limitare il traffico di Linate. C'è stato anche un lobbying forte delle compagnie straniere, di vettori europei, che temevano la possibilità che crescesse, nascesse uno scalo hub del sud Europa, quindi in mezzo alla penisola padana, che drenasse traffico rispetto al loro network. Quindi certo, insomma, ci sono stati una serie, e poi chiaramente sulle paternità dei problemi credo che almeno qui nel 2009 potremmo essere tutti quantomeno concordi sul fatto che appunto siano molte, perché attribuire a uno o a due protagonisti i problemi di Alitalia Malpensa sarebbe veramente grottesco. Assolutamente, ecco, come chiedevi come uscirne. Malpensa credo che resti un'infrastruttura strategica, insomma è in mezzo al corridoio 5, a una delle piattaforme produttive più ricche e più importanti d'Europa. È impensabile non essere in grado di metterlo a sistema, di valorizzarlo. Ci sono due o tre cose: uno, sicuramente completare l'infrastrutturazione e la possibilità di arrivare in maniera efficiente allo scalo. Questo è stato uno dei tarli forti di Malpensa in questi anni, cioè il vecchio vizio di fare l'infrastruttura e poi di pensare dopo ai collegamenti. L'altra cosa è appunto, se davvero, come credo che sia, è qui che c'è il mercato, lavorare perché si arrivi il più presto possibile, compatibilmente con le esigenze della politica, con i tempi della politica, a una liberalizzazione davvero delle tratte. Sperabilmente si dovrebbe arrivare all'open sky, ai cieli aperti con tutto il mondo. Chiaramente non è possibile se a, per esempio, chiede la rinegoziazione di 25 accordi bilaterali con diversi paesi, soprattutto del Far East e anche dell'America Latina. Bisogna insistere su questa strada. Che poi sono le rotte degli affari. Sono le rotte, molte volte abbiamo detto qui dentro, tutti attoniti, che mentre la Cina esplodeva come mercato, l'Italia chiudeva le rotte verso la Cina. Giampaolo da Milano, una battuta, buongiorno. Buongiorno, non è una battuta, io sono un utente imprenditore di 72 anni che faccio 100.000 chilometri l'anno intercontinentali e li faccio da Milano. Io non ho nessuna intenzione di perdere, insieme con tutte le persone che vedo, che sono tecnici, che sono persone di affari, eccetera, di perdere 4, 5, 6, 8 ore certo. per rimbalzare su uno scalo europeo qualsiasi, tantomeno Fiumicino. Non è per questione di campanismo, è perché quando uno di noi arriva a destinazione dopo 12 ore di volo e va a Hong Kong, va a Singapore, va a Sydney dopo 20 ore di volo, comincia a lavorare subito, non va a dormire in albergo, non fa il turista, no? E quindi se questo, se deve spendere altre 5 o 6 per rimbalzare da un aeroporto all'altro, mi dispiace, no. Ma è chiarissimo, grazie, grazie a Giampaolo. D'altra parte, quello che diceva un momento fa Marco Alfieri, non si vede perché un aeroporto che è nel cuore della zona economicamente più ricca e più attiva dell'Italia non possa, appunto anche attraverso le liberalizzazioni, avere delle proprie linee dirette con Shanghai piuttosto che con Buenos Aires. È così, dovrebbe essere il buon senso a dirlo, e purtroppo spesso diventa un alibi creare campanilismi artati, certo. Milano-Roma o via elencando. C'è, questo mi permetto di dirlo, anche una responsabilità importante delle classi dirigenti locali, per esempio il fatto che nell'ultimo decennio siano proliferati una serie di aeroporti, diciamo così, di territorio, di campanile, che certamente avvicinano diciamo l'utente alla possibilità di decollare verso il mondo, però chiaramente non creano quel sistema che è necessario per alimentare un hub come è stato Malpensa. Quindi Malpensa ha sofferto anche di questo. Bisogna voltare pagina adesso, perché l'infrastruttura è lì, è strategica e va ovviamente implementata, e credo che appunto l'unica via sia quella di arrivare a questa famosa riscrittura dei rapporti bilaterali e anche ovviamente chiedere ad Alitalia, a Air France, se appunto, come sembra, sarà Air France il vettore, il partner internazionale, di rilasciare immediatamente gli eventuali slot che non venissero utilizzati. Grazie a Marco Alfieri, dunque ridare ossigeno anche a questo mercato, che risponda in maniera diretta a quella che è la ragionevole richiesta di moltissimi utenti. L'avete sentito, Giampaolo ci ha chiamato per dire un punto che appare ovvio a tutti noi: esistono delle esigenze e quelle dovrebbero essere soddisfatte dal mercato del trasporto aereo. Sono le 8:57 minuti, io ringrazio ancora Marco Alfieri che è stato qui con noi, seguitelo su Il Sole 24 Ore, sul sole24ore.com, ci terrà aggiornato con i colleghi su quello che avviene appunto nel grande dossier del trasporto aereo. Per quanto ci riguarda, appuntamento a domani con Dietro la Notizia. Buona giornata a tutti.